Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, leggo sull'Avvenire che entro il 2050 servirà una produzione agricola maggiore del 70% per sfamare tutta l'umanità, che nel frattempo avrà toccato i 9 miliardi di individui. Possiamo anche drogare i terreni, applicare l'ingegneria genetica, eccetera, ma con l'acqua, il bene più prezioso e così ingiustamente distribuito, come la mettiamo? È ammesso, ma non concesso, che nel 2050 si riescano a sfamare tutti i 9 miliardi di abitanti. Come ci regoleremo, dato che nel 2075 avremo 12 miliardi e così via, in progressione geometrica? Prendere alla lettera il famoso andate e moltiplicatevi, ignorare o boicottare una seria politica demografica su base mondiale è veramente criminale. Edoardo. Ultimamente sento troppo spesso sparlare e inveire contro il Presidente del Consiglio. Non vorrei, anche se inizio a pensarlo, che il nostro Presidente del Consiglio sia uno sfogo alle frustrazioni di molti italiani che nutrono livore, odio e soprattutto invidia per un uomo che dal nulla è diventato il più influente degli italiani nel mondo. Sarebbe meglio che la gente fosse propositiva e fornisse idee per il buon funzionamento del sistema paese e non pensasse solo a chi va alle feste del Premier. Kennedy diceva: «Non pensare a quello che l'America può fare per te, ma a quello che tu puoi fare per l'America». Io faccio lo stesso con l'Italia, che amo e cerco di migliorare, senza perdere tempo a inveire contro i politici. Obama al G8 ha raccolto una bottiglia di plastica da terra. Possiamo farlo anche noi. Concludo dicendo che ci sono sempre due Italie. Una che lavora e una che si lecca le ferite dopo terremoti e alluvioni, dando la colpa al governo. Enrico. Caro direttore, dichiaro subito che non ho alcuna simpatia politica per il presidente Silvio Berlusconi. Anzi, trovo che abbia avuto un effetto pernicioso sul clima di convivenza civile del nostro paese, che abbia devastato pericolosamente lo Stato di diritto per fini personali, e mi dico spesso che sarei proprio curioso di poter leggere i libri di storia che scriveranno tra 50 anni, per vedere come descriveranno quello che è successo nel nostro povero paese in questi sfortunati anni e farmi 4 sane risate. Faccio parte anche di quelli che temono che si stia instaurando una sorta di regime che, contrariamente a quelli dittatoriali d'altri tempi, non ha più necessità del rozzo manganello, essendogli sufficiente un uso subdolo dell'informazione e del condizionamento economico e culturale. Peraltro, sono dell'idea che i veri problemi dell'Italia vadano ben al di là dell'operato del più grande piazzista della storia, così lo definì Montanelli. Credo, per esempio, che il più grande problema dell'Italia, finché sarà unita, e se va avanti così, credo lo resterà per poco, sia quello del Mezzogiorno e della mancanza di legalità che vige sostanzialmente in quella parte del paese e che rischia di diffondersi come un cancro a tutto il resto d'Italia. E allora mi è venuta in mente un'idea che trasformerei in un appello e in una sfida al Presidente del Consiglio. Onorevole Berlusconi, se lei riuscisse, grazie all'enorme potere e all'enorme volontà che ha dimostrato di possedere, a sconfiggere davvero, o almeno a contenere fortemente, la criminalità organizzata, utilizzando anche mezzi drastici, bene, a questo punto anch'io sarei pronto a turarmi il naso, a chiudere gli occhi, a votarla e a riconoscerle quella caratura di statista cui lei ambisce, finora con scarsi risultati. A questo punto entrerebbe davvero nella storia d'Italia e non solo come il presidente cabarettista. Ci pensi, seriamente. Sergio. Come libero pensatore, ritengo che l'attuale centrodestra stia tradendo la fiducia di quella parte di elettorato che l'ha votato. E io non ne faccio parte. Quella parte di persone che credono nella possibilità di creare una parziale equità attraverso la selezione naturale dell'economia di mercato, il lavoro e il senso civico. Questo genere di persone sta assistendo alla volgarità intellettuale e culturale di una classe dirigente nella sua interezza. Non solo il povero Silvio, avvezza ai peggiori mali italiani dello scorso secolo e della scorsa Repubblica. Di questo Silvio ne è l'icona, ma sotto c'è un nutrito sottobosco di loschi figuri che in questa poltiglia sociale ci sguazza allegramente e con la pancia piena. Pur non condividendone i principi etici e morali, sono comunque dell'idea che sia la proposta e la visione di centrodestra l'unico modo per stare a galla nell'economia mondiale. ma non penso che quella italiana sia capace seriamente e senza orrendi intrallazzi di raggiungere questo obiettivo. Del centro-sinistra non dico niente perché sono già abbastanza bravi a umiliarsi da soli. Tommaso. La richiesta di scuse da parte di Berlusconi per la frase rivolta a Rosy Bindi, secondo me, può essere caldeggiata solo da quelli che hanno fatto analoga richiesta di scuse da parte dei vari Beppe Grillo, Travaglio, Santoro, Di Pietro, eccetera, per gli insulti da loro pronunciati verso Berlusconi. Psiconano, mafioso, delinquente, eccetera. Cioè, nessuno. Fabio. Tutta la televisione italiana, ma in particolar modo Mediaset, tratta le donne in un modo vergognoso. L'unica immagine di donna trasmessa è quella della velina seminuda senza cervello. La battuta rivolta a Rosy Bindi non è casuale, ma rivelatrice di una mentalità, così come il rapporto distorto che Berlusconi ha con le ragazze che invita a Palazzo Grazioli. Come si fa ad immaginare qualcosa di più degradante di un gruppo di giovani ragazze che cantano «Per fortuna Berlusconi c'è»? Mia moglie è svedese, non posso più guardare la televisione italiana con lei perché non può sopportare il modo indegno nel quale sono trattate le donne. Forse noi italiani siamo assuefatti? Credete che l'immagine dell'Italia ci guadagni? Provate ad andare a vivere all'estero per un po' e ve ne accorgerete. Per me è stato un calvario e una vergogna continua. Spero che tutto questo finisca presto e che potremo diventare un paese serio. Lorenzo. Quando i padri costituzionalisti introdussero l'immunità parlamentare, lo fecero per equilibrare il potere molto accentuato della magistratura. Ora che l'immunità non esiste più e il lodo Alfano è stato bocciato, non sarà il caso di rivedere il sistema giudiziario italiano, compresi i poteri della magistratura? Pietro. Ricordo ancora come si illuminavano gli occhi dei più anziani del mio paese quando raccontavano dei premi messi in palio in occasione delle feste locali. Dolciumi e prodotti tipici erano i più ambiti, mentre un'altra speranza per la svolta veniva concessa dalla Riffa, che avrebbe fatto guadagnare al vincitore un vitellino. Non c'erano premi di consolazione né certezza che lo svolgimento della gara non avesse inganni, ma bisognava comunque tentare di soddisfare, magari anche scomodando qualche santo, due delle necessità vitali dell'uomo: fame e lavoro. I tempi in cui anche Totò recitava «Vi pare che l'appetito vien mangiando, ma in realtà viene a star digiuni», lasciarono lo spazio a nuove condizioni. Così, mentre i frigoriferi iniziavano a riempirsi persino di cibi dietetici, colorate trasmissioni televisive sorteggiavano premi sempre più fastosi. Una crociera per tutta la famiglia, un collier tempestato di diamanti, una Ferrari testa rossa, una montagna di gettoni d'oro, i premi o la busta, e via dicendo con le esagerazioni. La regola è di facile intuizione. Nuova economia, nuovi sogni, nuovi premi. Il pensiero avanza fino ai giorni nostri, in particolare al periodo in cui un posto di lavoro fisso sembra essere diventato un lontano miraggio e la mortificazione provocata da porte chiuse o peggio da licenziamenti cerca conforto anche nella promessa di una vincita sicura per un futuro che pare sempre più precario. Da quando due o anche tre lavoretti part-time, esclusi quelli extra in nero, non sono sufficienti a coprire le spese neanche fino alla seconda settimana del mese, è sempre più persuasiva l'idea di votarsi alla dea bendata. Al gioco del lotto, superenalotto, 10 e lotto e ai tanti altri dal montepremi sfacciatamente alto si è aggiunto da qualche giorno anche Win for Life. Il premio in palio è un vitalizio da 4.000 euro al mese per 20 anni, in cui comunque non viene previsto un adeguamento all'inflazione. Discutibile e molto pericolosa può risultare anche la scelta di concedere un'estrazione all'ora, poiché proprio le categorie più vulnerabili, come disoccupati, pensionati e casalinghe, possiedono indesiderate ore libere da trascorrere magari tra bar e ricevitoria. Ancora recentemente, un'azienda di supermercati ha istituito un concorso secondo cui, effettuando 30 euro di spesa, viene rilasciata una cartolina che permette di vincere buoni spesa o prodotti alimentari. Successivamente, si può partecipare all'estrazione finale di 10 posti di lavoro per un anno a tempo determinato in azienda. Dopo che la ricerca del lavoro per sorteggio ha sostituito l'obsoleta e vana ricerca tramite concorso, poco stupisce la scelta di una nota compagnia telefonica di mettere in palio un buono da spendere esclusivamente per l'acquisto di una casa. Che ne è stato dunque delle Ferrari, delle parure, delle crociere intorno al mondo? Sostituiti da nuovi desideri, la cui concretezza ed essenzialità per una vita dignitosa sembrano viaggiare in parallelo a quelle del passato. Non si tratta più di prodotti tipici locali, ma di un buono per la spesa. Non più un vitello da portare al pascolo, ma un lavoro, sia anche a tempo determinato. I premi, dunque, nel loro divenire, esprimono sempre la voglia ad ottenere ciò che nel tempo contingente appare irraggiungibile. La struttura sociale muta, e ad essa si adeguano anche sogni che oggi sembrano voler reclamare un ritorno alla perduta normalità occidentale: casa, lavoro fisso e stipendio che consenta di arrivare a fine mese, magari senza debiti e troppe rinunce. Ora che le aspettative per una realizzazione vengono riposte nelle urne, appare legittimo nutrire qualche perplessità sulla nostra Repubblica Democratica fondata sul lavoro, specie da quando quest'ultimo sembra essere destinato a pochi eletti baciati dalla fortuna, anziché essere ancora reclamato come diritto. Giusi. Ovvio che uno spettacolo come quello di Checco Zalone su Canale 5 si può fare, perché porta spettatori giovani e quindi denaro, dato che i giovani spendono. Provate a immaginare se fosse andato in onda sulla Rai. Chi li fermava? I vari Romani, Scaiola, Gaspari, eccetera. E poi il giornale Libero. Lettera firmata. Buongiorno, direttore. Ho sentito la lettera dell'imprenditore e, anche se abbiamo storie diverse, condivido molte cose con lui. E tra queste c'è il problema dei rimborsi per le tasse pagate in più. Le chiedo, direttore, perché io, persona onesta, mi sono fidato dei conti esattoriali, ho pagato il dovuto e quando questo si è rivelato in eccesso, devo a spese mie mobilitare impiegata e commercialista per riavere in tempi scandalosi i miei soldi, che oltretutto, beffa delle beffe, sono nuovamente tassati. Mi hanno preso dei soldi e vogliono dei soldi per ridarmeli. Se la facessi io personalmente, come si chiamerebbe un'azione del genere? Fidel. Caro Fidel, il problema dei rimborsi fiscali insieme a quello dei ritardati pagamenti delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere in prima fila nelle attenzioni di chi gestisce quelle che potremmo chiamare le cose di Stato. Anche perché abbiamo una palese difformità di trattamento. Di fronte a un cittadino che deve pagare, lo Stato ha efficaci mezzi coercitivi. Ma non altrettanto avviene quando è il cittadino o le imprese a dover chiedere il rimborso di tasse pagate in più o pagamenti per prestazioni regolarmente effettuate. Bisogna tuttavia riconoscere che alcuni passi in avanti sono stati fatti. Proprio nelle scorse settimane 900.000 italiani hanno ricevuto rimborsi delle agenzie per le entrate per oltre 600 milioni di euro. Una notizia positiva, ma che dimostra anche come fosse vasto il problema, un problema che peraltro è stato affrontato e risolto solo per i contribuenti più piccoli. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.